E vogliamo alzarci in piedi, dai, così facciamo anche un po' di esercizio e vogliamo pregare, va bene? Preghiamo insieme. Signore, ti ringraziamo per il messaggio che hai messo nel cuore di Luis, nel cuore di Milly. Noi siamo certi che viene da te. E quindi quello che vogliamo pregarti in questo momento è che lo Spirito Santo possa aprire completamente il nostro cuore e completamente la nostra mente a ricevere tutto quello che tu vuoi darci questa mattina. A te la gloria e l'onore. Amen. Amen. Buongiorno. Buongiorno, io lascio a Milly la prima parte, però voglio dare un bacio, un abbraccio a tutte le mamme. Mamma mia, veramente che essere mamma oggi è roba da supereroe, vero? Come abbiamo visto nel video che ha messo la Chiesa su Facebook. Io voglio fare velocemente questa mattina perché abbiamo molto, vogliamo dire, condividere molto da parte di Dio per voi. Prima di tutto voglio che ti giri alla mamma che c'è accanto e gli dici auguri, il compito che hai è da supereroe, perché è vero. Auguri mamma, il compito che hai è di una supereroe. Bravi, bravi, molto bravi. Allora, per iniziare voglio sottolineare due punti importanti d'accordo alla parola di Dio. La prima cosa è che la donna, prima di essere mamma, è moglie. Vado diritto al punto, perché non c'è molto tempo oggi. È vero, oggi celebriamo il giorno della mamma, in molte nazioni si celebra il giorno della mamma, però io non so perché non c'è il giorno della moglie, perché prima di mamma siamo moglie. Dio ci ha creati per essere prima moglie e dopo mamma. È molto importante la funzione di mamma, è molto importante, lo vedremo insieme, però voglio che abbiamo questo in mente. Cara sorella, cara amica, prima di essere mamma, tu sei moglie. E tutte le donne, tutte abbiamo questo pericolo, questo rischio. Una volta che diventiamo mamma, quasi che ci dimentichiamo che abbiamo un marito accanto. È un rischio grande, perché non è così l'ordine che Dio ha stabilito per la famiglia. Noi vogliamo essere mamma, ma soprattutto vogliamo essere mamma come Dio vuole che siamo mamma. E prima dobbiamo essere moglie e non dimenticarci dei nostri mariti. Bambini, ragazzi, figli, ragazze che siete qua presente, vi voglio dire, mamma è prima moglie. Mamma deve l'attenzione prima a papà, dopo a voi. Questo è l'ordine di Dio. La seconda cosa che voglio sottolineare è che non è compito soltanto della mamma allevare, educare i figli. Questa è un'altra verità molto importante che dobbiamo avere in testa e molto presente. Padri, mariti, non lasciate vostre mogli allevare, educare i figli da soli, perché non è compito soltanto della mamma. Anzi, davanti agli occhi di Dio, voi come genitori, come capofamiglia, come sacerdote della casa, siete più responsabili che la mamma stessa. Non dimentichiamo queste cose, perché sono verità importanti. Noi viviamo in una società molto marianista, si dice così in italiano, mariana diciamo in spagnolo. La Madonna è sempre presente, è ovunque, è un personaggio forte. E a volte, inconscientemente, ci portiamo questo pensiero anche a casa. La mamma non è la responsabile totale di allevare e creare i figli. Non è la principale responsabile. Prima di tutto è il marito, il padre. È un compito che Dio le ha dato a entrambi i genitori. Insieme lo dovete fare, insieme lo dobbiamo fare. Me lo dico a me stessa, perché molte volte nel mio compito di essere mamma lo abbiamo nel cuore, Dio ci ha creato così. Dimentico che ho un marito e lui è il mio primo compito, mio marito. Con queste due cose in mente, allora andiamo a vedere insieme che dobbiamo avere un proposito ben definito per i nostri ruoli, per il ruolo di padre, per il ruolo di mamma, di genitori. La mancanza di uno scopo definito porta la maggioranza dei genitori a credere che sono buoni genitori, si provvedono del cibo, si provvedono alloggio, si provvedono vestiti, un'educazione scolastica, si provvedono svago, si provvedono tutte le cose materiali che ci sono, che sono bisogno. E questo è importante, ma non è lo essenziale. Senza uno scopo definito possiamo cadere in questo sbaglio. La carenza di uno scopo chiaro per il mio ruolo di mamma, per il tuo ruolo di padre, ci porta a sviarci tra gli obiettivi che facciamo dei mezzi un fine, facciamo dello secondario il principale. E non è quello lo principale, anche se è importante provvedere tutto questo ai figli. Qual è lo scopo secondo la Bibbia? Secondo la parola di Dio, secondo il piano di Dio, qual è lo scopo per la famiglia? Qual è lo scopo per diventare genitori? Qual è lo scopo perché io sono diventata mamma? La famiglia esiste in funzione a un proposito molto più alto, un proposito eterno, all'eterno proposito di Dio. Noi diventiamo genitori per cooperare con la realizzazione di questo scopo più alto, dello scopo di Dio. In Efesini 1, 4 e 5, troviamo che Dio vuole essere il padre di una grande famiglia. Andiamo a leggerlo insieme. In Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevole della sua volontà. Dio vuole essere padre di molti figli che somiglianti a Gesù. Questo lo troviamo in Romani 8, 29. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Come genitori, come mamma, abbiamo una commissione: collaborare a riempire la terra di uomini e donne alla sua immagine e somiglianza, per avviare la seguente generazione nella volontà di Dio. Questo è il nostro compito, questo è il tuo compito di mamma, questo è il tuo scopo, perché Dio ha fatto che tu diventassi mamma. Non è per il nostro proprio benessere, non è per il nostro proprio piacere. Io non sono diventata mamma perché quando sarò vecchia, perché ancora non lo sono, avrò i miei figli lì e forse i miei nipoti torno a me e io non sarò da sola. Non è questo il scopo per il quale Dio ha pianificato che noi diventassimo genitori o mamma, nel mio caso. Ma come cooperiamo con lo scopo di Dio? Nell'educazione dei figli per Dio. Noi non li educhiamo perché siano bravi figli e la gente possa dire che bravi figli che hanno Luis Emili o che bravi figli che hanno Saverio Enza. Noi li educhiamo per Dio, per Lui. È emozionante pensare che possiamo avere figli ai quali Dio vuole adottare come i suoi figli. Tutto cambia quando noi abbiamo questo in mente. Quando noi scopriamo il vero scopo per il quale Dio ci ha fatto mamma, vogliamo fare il meglio perché loro diventano figli di Dio. Dio non ha nipoti. Il fatto che i miei figli sono nati in una famiglia cristiana non vuol dire che immediatamente sono diventati figli di Dio. Loro devono fare la loro scelta con Dio. E il compito nostro come genitori, il nostro compito come mamma è guidarli a Dio. Cambia tutto il nostro atteggiamento di fronte a questa responsabilità familiare quando comprendiamo questo. Avere figli, sia propri o sia adottivi, o forse non hai avuto l'opportunità di essere una mamma o un padre, però puoi avere figli spirituali anche. Avere figli, allevarli, cucinare, lavare, stirare, lavorare per il sostegno giornaliero della famiglia, istruirli, educarli, tutto, tutto lo dobbiamo fare per Dio. Lo facciamo per Dio. Siamo i suoi collaboratori. Tutto lo dobbiamo fare con la consapevolezza che stiamo allevando più che i nostri figli, i suoi figli. Con questo proposito, con questo scopo in vista, ogni lavoro, ogni sforzo per la famiglia si convierte in un servizio a Dio. Il tavolo di lavoro, la macchina quando andiamo a lavorare o la macchina con la che lavoriamo, il tavolo di cucina, il piano cottura di cucina diventano altare per Dio. Se abbiamo questo scopo presente nella nostra vita. Di questo modo si compie la visione di Zaccaria. In Zaccaria 14, 20, 21 sta scritto: in quel giorno si leggerà sui sognali dei cavalli santità al Signore. Ogni pentola a Gerusalemme e in Giuda sarà consacrata al Signore dell'esercito. Se noi abbiamo questo scopo presente, la nostra cucina, le nostre pentole saranno consacrate al Signore. È importante che i genitori, non soltanto la mamma, l'ho sottolineato, non solo assumano la responsabilità di allevare i figli, ma anche di dirigerli al Signore. Pregare per essi, pregare con essi. Educarli con l'esempio, dedicare tempo ai figli, insegnare la parola di Dio ai figli, guidarli a che i figli possano avere una relazione stretta con Dio, un rapporto personale con Dio. Di quel modo, soltanto così, i nostri figli arrivano a essere veri figli di Dio. Ma una famiglia, una coppia, dei genitori, una mamma che alleva i suoi figli, educa i suoi figli con questo in mente, riesce a godere dei legittimi benefici di avere i figli? Certamente, certamente che sì. Dio non vuole avere una famiglia per se stesso a costa della nostra felicità. Dio vuole che noi godiamo dei benefici che ci sono dentro della famiglia, ma quello è secondario, quello è le aggiunte, non è lo principale, non è il scopo. L'importante è il suo proposito eterno. La famiglia è la scuola di formazione, tanto per i genitori come per i figli. Figli, i vostri padri non sono nati sapendo essere genitori. È nel grembo della famiglia che si impara questo. Tutti impariamo dentro della famiglia. è la scuola di formazione, la prima scuola. Genitori, i suoi figli non imparano a conoscere Dio in chiesa, lo imparano in casa. La prima scuola è la casa, è la famiglia. Dio utilizza la convivenza familiare per trasformare il nostro carattere, perché Lui vuole conformarci alla immagine di suo figlio Gesù, in accordo al suo scopo eterno. È nella convivenza familiare dove più abbiamo bisogno di praticare le virtù cristiane, come l'amore, l'umiltà, la pazienza, la bontà, la mansuetudine, eccetera, eccetera. È lì dove impariamo, è lì, nella famiglia, dove insegniamo ai nostri figli questo. È nella famiglia dove impariamo la responsabilità, dove dobbiamo insegnare ai nostri figli a essere responsabili, a essere diligenti. Lo impariamo anche noi come genitori. Impariamo la sottomissione, il modo tenero, il servizio. Se i nostri figli non imparano a essere serviziali a casa, non lo faranno fuori. Non è in chiesa che si impara a essere serviziale, è in casa, in famiglia. È in famiglia che si impara l'ordine, il rispetto, la tolleranza. Vivendo in famiglia apprendiamo a perdonare, a sopportare, a confessare, a negarci a noi stessi, a negarci i nostri diritti per amore dell'altro, ad esercitare autorità con amore, a correggere con grazia, a soffrire, a sacrificarci per gli altri, a governare, amministrare, a condividere, a pregare e a confidare in Dio. Ma cosa facciamo se davanti a tutte queste cose scopriamo che siamo mancanti? Cosa devo fare se quando leggo la parola di Dio, leggo il suo proposito, il suo scopo eterno, mi rendo conto che sono stata egoista, che ho pensato in me stessa e non nello scopo di Dio? Cosa posso fare? Sicuramente dovrò aggiustare molte cose nella mia vita e guidata dalla parola di Dio, sicuramente le devo fare, ancora oggi lo faccio, tutti lo dobbiamo fare, perché noi non ci dobbiamo conformare alla cultura nella che viviamo, noi ci dobbiamo conformare alla cultura del regno. Ogni giorno sicuramente dovrò aggiustare cose. Cosa posso fare se mi rendo conto che non sto dando o ricevendo nella mia famiglia quello che Dio ha stabilito? Cosa posso fare? Sono molte cose che si possono fare, ma oggi vogliamo condividere una in particolare. Vogliamo fare un esempio pratico in questo, però prima di iniziare questo esempio voglio sottolineare una cosa che ha detto Mili, che è importante che tutti noi l'abbiamo presente. Qual è il piano, lo scopo di Dio per il mondo, per averci creato? Qual è? Dio, lo ha detto Mili, è padre e vuole avere molti figli alla somiglianza, che assomigliano a Gesù. Questo è il piano di Dio. E per questo è la famiglia collabora, la famiglia, dentro di questo scopo di Dio sta la famiglia che collabora con questo piano di avere molti figli che assomigliano a Gesù. E questo è il nostro piano, ma non sempre è così facile, non sempre viene così. Anche l'nemico vuole distruggere le famiglie perché sa che questo è l'ambito dove Dio porta avanti il suo piano. Io ho portato un cuore, se mi è caduto il cuore. Ho portato questo cuore per renderlo pratico. Che vuole dire il cuore? Che rappresenta? È solo per rappresentare una cosa che lo possiamo vedere e la possiamo vedere in una maniera pratica. Questo cuore rappresenta le nostre emozioni, i nostri sentimenti, il nostro amore. Lo voglio rappresentare con questo cuore. Non lo so se ha la forma di un cuore vero, no? Se è così. Però Permettetemi di fare questo. Mettiamo in questo cuore che rappresenta le nostre emozioni, i nostri sentimenti, il nostro amore. E che cosa dobbiamo fare con il nostro cuore? Dio ci insegna a darci il cuore l'uno all'altro. E questo è molto importante. È lo che Dio ha fatto per noi. Dio ci dà il suo cuore. Dio ci dà il suo amore. Lo fa una volta, un'altra volta, un'altra volta. Anche se noi abbiamo deluso tante volte, io almeno ho deluso tante volte a Dio, con i miei peccati, con le mie, non lo so, ribellioni. Ma Dio continua a darmi il suo cuore di padre, il suo amore di padre. Dio continua a darci sempre il suo cuore. Continua a darci il suo perdono. Dare il cuore è anche perdonare. E Dio ci dà il suo perdono sempre. E ci ha dato tanto, tanto il suo amore che è venuto Gesù e è morto per noi nella croce. Questa è la manifestazione più grande dell'amore di Dio per noi. E Dio ci dà il suo cuore a noi. E che cosa Dio aspetta di noi? Che noi ci diamo il cuore l'uno all'altro. Il cuore, adesso perché l'ho fatto questo disegno? Perché per che lo possiamo vedere, perché il cuore molte volte non si vede, sta dentro. Il cuore sta nascosto dentro nostro. E molte volte il cuore è ferito. Perché? Perché soffriamo delle delusioni, mi hanno rifiutato e questo ha ferito il mio cuore. Mi hanno detto una parola forte e questo mi ha ferito. E questa ferita del cuore noi non la possiamo vedere perché è dentro nostro, però è strano. Questa ferita è strana. Non possiamo vedere il cuore, però possiamo vedere il frutto del cuore. Se è un cuore che è allegro, un cuore che è guarito, che è sano, è un cuore allegro, un cuore che benedice, un cuore che sta sempre, che gode della vita, gode di servire a Dio, di stare con altre persone. Però se il cuore è ferito, io non lo so, io non lo posso vedere. Però si possono vedere i frutti. Quali sono i frutti di un cuore ferito, un cuore rotto, un cuore danneggiato? Possiamo vedere l'amarezza, la tristezza. Anche un frutto molto semplice, la indifferenza. Sono indifferente. Non mi importa dell'altra persona, non mi importa se le va bene, le va male, non mi importa niente di lui. Sai che cosa è questo? Un cuore ferito. Perché Dio ci chiama a dare il cuore, ci chiama a amarci l'uno all'altro, a perdonarci l'uno all'altro. Ma quando ho il mio cuore ferito, per una esperienza, può essere anche di bambino, tante cose possono ferire il cuore. Ma è una cosa che succede, una cosa che succede spesso. E dove succede di più? Succede di più nell'interno della famiglia. Perché? Perché è il tempo dove condividiamo di più nell'interno di una famiglia. Succede di più anche nell'ambito di un lavoro. Succede molto nella chiesa, che può essere che il mio cuore è ferito perché qualcuno mi ha detto qualcosa, mi ha fatto, no, non mi, mi ha rifiutato. Io ho rimasto con un cuore ferito. Ma che cosa devo fare? Che cosa devo fare con il mio cuore ferito? Dio ci chiama a dar il cuore a chi lo ha ferito, a tutti. Anche ai nostri nemici, dice la parola. Dice, amate i vostri nemici. E dare, amare vuol dire dare il cuore. Ma come si fa? Come si fa questo? Io voglio andare veloce. Voglio mettere come esempio Gesù. Come ha fatto Gesù? Voi sapete di Gesù. Sapete che lui ha avuto quanti discepoli? Ha avuto 12 discepoli. Abbiamo sentito il pastore Pino predicare di questo pochi domenica fa, di che non erano pronti, ancora erano, le hanno fatto di tutto al Signore, le hanno deluso tante volte al Signore, ma il Signore continuava a dargli il cuore a questi 12. Uno si chiamava Giuda. Sapete di Giuda? Che cosa ha fatto Giuda? Ha tradito il Signore, le ha venduto per 30 monete. Ma Gesù lo sapeva, ma lo stesso le ha dato il suo cuore. Questo mi insegna. Noi dobbiamo essere sempre pronti a dare il nostro cuore. Che cosa è successo con Pietro? Signore, io darò la mia vita per te. E Gesù le dice, Pietro, questa sera, prima che il gallo cante tre volte, tu mi e rifiutarei 3 volte. Non può essere, Signore, io darò la mia vita per te. Pietro, questa sera tu mi rifiuterai, mi lascerai da solo. Ma non soltanto Pietro, tutti quella sera li hanno abbandonato. Quando è venuto l'esercito, lo ha preso a Gesù. Quelle persone che Gesù aveva dato tutto il suo cuore, aveva dato tutta la sua vita per vivere con loro, nessuno stava a fianco con Gesù. Ma che cosa ha fatto Gesù? Ha dato lo stesso, le ha dato di nuovo, ha avuto fiducia di nuovo in loro e gli ha tornato a dare il suo cuore. Io penso molto in Pietro, questo mi piace come il Signore. Quando io litigo con mia moglie, viene più vicino. Io litigo ogni tanto, non pensate che non lo faccio. Quando io litigo con lei, a noi non lo so se ci piace, forse non ci piace, però lo facciamo, e forse tutti noi lo facciamo, no? Vogliamo chi ha ragione, ma tu hai fatto così perché tu hai fatto così, ma no, io ho fatto questo perché questo, e vogliamo vedere chi ha più ragione almeno. Quando ci stanchiamo e non possiamo fare più, ci chiediamo perdono e ci diamo il cuore l'uno all'altro. Molte volte funziona bene così, ma molte volte no, non è necessario. Guardate che cosa ha fatto Gesù. Gesù è apparso a Pietro e che cosa le ha detto? Gesù poteva dirle tranquillamente, forse noi lo avremmo fatto. E Pietro, perché mi hai tradito? Perché mi hai lasciato da solo? Te l'avevo detto che mi rifiuterei. Tu mi hai detto, no, io non ti rifiuterò. Hai visto che era come io dicevo, perché sei così testaro? Poteva dirle tante cose. Ma che cosa le ha detto Gesù? Non le ha detto niente. Soltanto che quando stavano mangiando il pesce nel lago, Gesù si è avvicinato e le ha detto, Pietro, mi ami? Gesù, tu sai che ti amo. Va bene. Dopo un po', Pietro, mi ami? Signore, tu sai che io ti amo, che ti voglio bene. Va bene. Dopo un po', Pietro, mi ami? La terza volta. Dice che Pietro era in tristezza perché diceva, ma Signore, tu che lo sai tutto, tu sai che io ti amo. Va bene, pastorice, non so come si dice, cura delle mie pecore. Ma soltanto questo, non è andato a discutere, soltanto ha dato il cuore. Sai perché dico questo, fratelli? Perché molte volte noi vogliamo sempre discutere, avere chi ha più ragione. Ma molte volte non serve questo. Molte volte serve, altre volte non serve. Dobbiamo essere pronti per dare il nostro cuore. Quando litighiamo, l'unica cosa che facciamo è ferirci di più. Questo è quello che succede quando litighiamo e vogliamo avere noi la ragione. Quando vogliamo vincere, questo è lo che succede. E che cosa facciamo quando abbiamo il cuore così? Come facciamo? Che cosa Dio aspetta che noi facciamo con il cuore ferito? Forse tu hai dato il cuore e l'altra persona ha fatto così. Ha buttato, ti ha rifiutato, ti ha calpestato il cuore. Succede. Forse ti senti così, che ti hanno calpestato il cuore. Che cosa facciamo? Che cosa spera Dio che noi facciamo con questo? Dio spera che facciamo questo. E mettiamo ogni peso nel suo posto. Puliamo il nostro cuore e torniamo di nuovo a dare il nostro cuore. Sai una cosa? Come si guarisce il cuore? Io se lo ho il cuore tutto rotto, tutto ferito, e lo metto dentro mio, continuerà ferito. C'è una forma per guarirlo. C'è una forma per rifarlo di nuovo. C'è una forma, una unica forma che il Signore ci insegna. Sapete qual è? È questa. Se tu lo dai di nuovo a quella persona che ti ha ferito, questo cuore guarisce. Non lo so come succede, però succede. Non lo so come il Signore lo fa, però lo fa. Quando noi siamo pronti per perdonare, per dare il cuore di nuovo a chi mi ha ferito, per dare il cuore di nuovo a mia moglie. Ma forse non sono cose grandi, però sono feriti, sono cose che hanno rimasto lì. Quando do di nuovo il cuore guarisce, un cuore nuovo, un cuore sano, perché il perdono guarisce il nostro cuore. Amen? Amen. Siamo pronti per dare il nostro cuore. Gesù ci ha insegnato nel Padre nostro che dobbiamo perdonare noi, perdona i nostri peccati come noi perdoniamo altri che ci hanno fatto male. Pietro una volta le dice: Signore, quante volte devo perdonare al mio fratello che pecca contro me? 7 volte. E Gesù dice: io non ti dico 7 volte, dico 70 volte 7 devi perdonare. E c'è un versetto nella Bibbia che per me è molto molto importante, è Marco 11:25, che parla che quando stiamo pregando perdonate, se qualcuno ha qualcosa, se hai qualcosa contro qualcuno, perdonate. In la preghiera dobbiamo perdonare. Quando noi preghiamo e perdoniamo, c'è potere di Dio, c'è potenza di Dio che esplode, non lo so, che funziona. Quando io sono pronto a dare il mio cuore di nuovo, c'è qualcosa che succede, che c'è una potenza di Dio che mi dà la capacità di perdonare, di rifare il mio cuore. Mili, come moglie, io ti voglio dare il mio cuore di nuovo. E anche ti chiedo perdono perché tante volte forse io ho ferito il tuo cuore. Forse tante volte ho fatto delle cose sbagliate. Sapete, come uomo, penso che tutti gli uomini siamo un po' così, insensibili, non ci rendiamo conto e possiamo ferire con molta facilità il cuore della nostra moglie. Io ti chiedo perdono e ti do il mio cuore, però ho bisogno anche che tu mi dai il tuo cuore, il tuo perdono. Luis, come moglie, molte volte ti ho ferito quando non ho rispettato la tua figura di marito e padre. Come moglie, molte volte ho calpestato il tuo cuore quando non ti ho considerato come primo nella mia vita e ho messo i miei figli prima di te. Ti dono il mio cuore e ti chiedo perdono nuovamente. Cristian, noi come genitori, Vittoria, non lo so dove sta Vittoria, però noi vogliamo offrire di nuovo, vogliamo darvi il nostro cuore. E vi chiediamo perdono per tante volte che abbiamo sbagliato. Forse non abbiamo l'esperienza come genitori, abbiamo fatto tanti sbagli con voi. Però vi chiediamo il perdono, però vogliamo darvi il nostro cuore in questa mattina. E abbiamo bisogno del vostro cuore, abbiamo bisogno del vostro cuore, del vostro perdono. Vittoria e Cristian, molte volte il servizio, il ministero ha occupato il tempo che era vostro. Il nostro tempo non è stato un tempo di qualità per voi. Vi chiediamo perdono e vi chiediamo di accettare il nostro cuore un'altra volta e avere pazienza, perché anche noi come genitori stiamo imparando, non lo sappiamo tutto. Vi chiediamo perdono, accettate i nostri cuori nuovamente. Vogliamo finire qui però avendo un momento di preghiera, dove noi possiamo darci il cuore. Io vi chiedo di pregare tutti insieme, parlo ai uomini, a genitori, a padri come io, preghiamo questa mattina, preghiamo per non lo so, non chiedere a Dio: Signore, posso chiedere per mia moglie, che cambio mia moglie, Signore? No, non devo chiedere così, almeno questa mattina non chiediamo così. Uomini, chiediamo: Signore, aiutami, dammi la capacità di dare il mio cuore. Dammi la capacità di dare il mio cuore a mia moglie, dammi la capacità di dare il mio cuore ai miei figli. Forse che si è fatto duro il mio cuore. L'ho lasciato stare così, Signore. È la mia responsabilità, il mio cuore è duro adesso, è ferito, perché io l'ho permesso questo. Signore, ti chiedo perdono e ti chiedo, dammi la capacità di dare il mio cuore, di essere responsabile della mia famiglia e di dare il mio cuore a mia moglie, a miei figli. Che possiamo pregare così questa mattina, uomini. Donne, mamme, possiamo pregare anche Che Dio ci dia la capacità di entregare il nostro cuore ai nostri mariti e ai nostri figli un'altra volta. Forse ci hanno deluso, forse ci siamo sentiti sovraccaricati, forse abbiamo sentito che ci hanno lasciato da soli a fare padre e madre. O forse noi, per il nostro carattere, abbiamo preso tutta la responsabilità e ci siamo sovraccaricati da se stesse. E non abbiamo dato al nostro marito il permesso di funzionare come marito prima e come padre. Chiediamo a Dio in questa mattina che ci perdono e che ci dia la forza di donare il cuore, di affidare il nostro cuore al nostro marito, di credere un'altra volta in loro. Dio può fare grandi cose nella nostra casa. Anche i figli, figli, in questa mattina possiamo dare il nostro cuore ai nostri genitori. Diamo il nostro cuore, diamo tutto il rispetto. È vero che possiamo sbagliare, possono sbagliare, è vero, però quello a noi non è lo che ci interessa adesso. Lo che ci interessa adesso è che noi possiamo dare il nostro cuore ai nostri genitori. Perché? Per il solo fatto di che sono nostri genitori. Per solo il fatto di che sto dando il mio cuore anche a Dio di questa maniera. E dobbiamo dare il nostro cuore ai nostri genitori. I genitori dovete dare il cuore ai vostri figli. Dobbiamo darci il cuore l'uno all'altro. E vogliamo fare questo. Anche, sto pensando, stiamo portando tutto questo nell'ambito della famiglia, però può essere anche nell'ambito del lavoro, che ci sono delle ferite molto forti. Perché? Perché passiamo molto tempo nel lavoro, nell'studio, può essere nell'ambito della chiesa. Succede lo stesso. Se io sono sto male con un fratello, cerco di non passare per un'altra parte per non salutarlo. Perché? Perché il mio cuore è ferito. E che possiamo dare il nostro cuore a chi ha bisogno di dare il nostro cuore. Io vi prego, possiamo alzarci. E mettiamo come famiglia, il marito con la moglie, con i figli, se si possono mettere insieme per pregare in questa mattina. Facciamo questo. E sì, ci sono persone che stanno da soli, che si possono mettere anche persone che stanno da soli, possono mettersi anche in un gruppo. Alla fine siamo tutti famiglia, siamo tutti famiglia di Dio. Chi è qua per prima volta in questa mattina può pregare insieme a chi le ha portato in chiesa in questa mattina. Possiamo, prendiamo un po' di tempo per sistemarci. Se siete con la famiglia, con i figli, che la famiglia si può mettere insieme per pregare e non per discutere niente, né per dire niente, solo per dar il cuore l'uno all'altro. E chi sta da solo, nessuno rimane da solo, per favore, tutti uno si mette con un altro, se a fianco, se per prima volta chi ti ha portato, vai con lui, o qualcuno si mette sempre insieme a un'altra persona, però nessuno, per favore, da solo, siamo famiglia. E possiamo pregare e darci il cuore. Forse la persona che tu le vuoi dare il cuore non sta qui, però dobbiamo dare il cuore e la nostra preghiera. Signore, io perdono questa persona, io le do il cuore adesso a questa persona nel tuo nome, Gesù. Lo faccio, Signore. Possiamo pregare anche per questo e preghiamo l'uno per l'altro. Preghiamo, nessuno da soli, tutti mettete insieme con un altro. Signore, in questa mattina, Signore, veniamo a te, Signore. Tu ci hai insegnato a perdonarci, a darci il cuore l'uno per l'altro, a dare tutto il nostro amore l'uno per l'altro, Signore. Aiutaci adesso, nell'interno della famiglia, nell'interno della chiesa, nell'interno della nostra vita, Signore. Vogliamo avere un cuore guarito, Signore, un cuore sano, senza ferita, senza nessuna cosa che l'nemico può rubare la benedizione che tu hai per noi, per la nostra famiglia. Non vogliamo permettere questo, nel nome di Gesù non permettiamo questo, e nel nome di Gesù non vogliamo permettere a nessuna cosa che l'nemico può avere un'entrata nella nostra vita, nella nostra famiglia. No, non posso permettere questo, e per quello sono disposto in questa mattina a dare il mio cuore a chi ha bisogno, Signore, a chi io ho bisogno di dare il mio cuore. Signore, aiutaci in questa mattina, aiutaci in questo. Signore, opera tu, Signore, nel nome di Gesù, Padre. Nel nome di Gesù, Signore. Aiutaci, Signore. Aiutaci. Signore, con la Tua presenza, con il Tuo Spirito Santo, Signore, aiutaci, aiutaci, aiutaci a guarire le relazioni, a guarire i rapporti, che può revivere il nostro matrimonio, la nostra famiglia, può revivere questa mattina, può iniziare un periodo nuovo, un periodo pieno in Te, Signore, che l'ennemico non ha nessuna parte nella nostra famiglia, nel nome di Gesù. Amen, Signore.